fiato mi ritrovo indietro, però non mollo perché questa è la mia regola. Ci sono giorni in cui mi sveglio vuoto, continuo solo per vedere dove poi cadrò. Prova a spiegarmi tu dove ho sbagliato, prova a spiegarmi tu cosa è stato. Nessuno può diventar qualcuno. Non basta credere, non basta credere, non aspettare che sia il mondo a prenderti per mano. Stringimi forte, tienimi vicino.